La versione di Oscar, di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori, ed eccoci qui dagli studi di Milano di Radio 24. Questo inizio di settimana per la versione di Oscar. Grazie per l'ascolto in diretta e in podcast come sempre. Vi ricordo l'indirizzo della versione di Oscar, che ho cioè radio24.it. Questo giorno però trasmissione di servizio non segnalata da voi, quindi sui temi, visto che sabato sera il governo ha varato, o meglio, ha annunciato il varo, e ne ha spiegato tramite slide i contenuti, la legge di bilancio, non si chiama più legge di stabilità, ma la legge di bilancio per il 2017, e come sapete poi è triennale per portata, naturalmente poi di anno in anno si modificano le poste precedenti, ma per il 2017, 2018 e 2019. Allora abbiamo diviso, per così dire, gli approfondimenti di questa trasmissione su due temi. Il primo è quello fiscale e poi un giudizio generale da quello che abbiamo capito della manovra. Giudizio generale perché io premetto tre brevissime osservazioni mie. La prima è che sono senza parole di fronte al metodo che oramai è diventato consuetudine in questi anni e con questo governo, perché noi naturalmente non abbiamo nemmeno tre elementari tabelline, che non dovrebbe essere così complicato mettere insieme, per l'esposizione della legge di bilancio, e cioè tre tabelline, una relativa alle variazioni precise però di spesa, diminuita o in aggiunta con nuove spese, per le entrate, che cosa è entrata aggiuntiva e che cosa è minore entrata da sgravi, e per le coperture, cioè relative a come si coprono i saldi che determinano dalla somma algebrica delle prime due tabelline. Non ce l'abbiamo. Abbiamo avuto una raffica di slide che naturalmente è composta secondo la comprensibile, legittima priorità delle esigenze di comunicazione politica da parte del governo. Però noi non abbiamo i testi della manovra, né del decreto legge aggiunto alla manovra, e non abbiamo un riepilogo preciso delle cifre. Abbiamo solo, e di ciò ci pasciamo facendo pagine intere sui giornali tutti i giorni, ciò che il governo ci ha detto. Prima osservazione. Seconda osservazione: poiché è una manovra rispetto alle cui ipotesi macro sottostanti, cioè previsione di crescita, l'ufficio parlamentare di bilancio, introdotto nel nostro ordinamento come ente terzo apposta per certificare e vagliare le ipotesi macro e dei numeri conseguenti in manovra da parte dei governi, non ha asseverato le cifre della nota di variazione del DEF, che sono il sottostante come ipotesi su cui appoggia la legge di bilancio. A maggior ragione, secondo me, occorreva da parte del governo essere precisi e giustificare perché la mancata certificazione non sposti il governo di una virgola dai suoi obiettivi, cioè quelli di ottenere un deficit non più dell'1,8% del PIL come previsto e contrattato con l'Europa, ma nell'ambito del 2,3%-2,4%. Stiamo parlando di mezzo punto oppure 0,6% di PIL di deficit in più, e questo non è cambiato, purtroppo. Terza osservazione: il più delle coperture, almeno da quello che abbiamo fino a questo momento capito dalle slide del governo, è ballerina. Perché mentre ci sono più o meno 4,9 miliardi che dipendono da poste di spesa spostate, in particolare 3,3 miliardi dagli effetti dei risparmi effettuati attraverso la centralizzazione di asset telematiche Consip per le forniture pubbliche, e il resto, 1,6 miliardi, da riallocazione di fondi, in primis, ha detto il Presidente del Consiglio, dal fondo della Presidenza del Consiglio, per il resto 6 miliardi sono del tutto ipotetiche e derivano da maggiori entrate fiscali, 2 miliardi dall'emersione volontaria di reddito, la voluntary disclosure 2, di cui non abbiamo la stesura, quindi non sappiamo in cosa dovrebbe essere più incentivante rispetto alla prima, né sappiamo se si toccherà un minor rischio penale rispetto alla prima, e 4 miliardi la cosiddetta abolizione di Equitalia, che naturalmente abolizione non sarà, sarà un cambio di nome con immissione dell'Agenzia delle Entrate, vedremo con che problemi. E sulla rottamazione dei ruoli, cioè delle cartelle, perché questo è non l'abolizione di Equitalia, perché nessuno Stato può fare a meno di un ente di riscossione, come è ovvio, ecco, dalla rottamazione dei ruoli lo Stato pensa di incassare 4 miliardi di euro. Vedremo se è fondata e in base a cosa questa fonte di entrata, visto che tutti i giornali vi dicono che sarà possibile pagare le cartelle senza sanzioni, addirittura dicendo che i giornali titolano sul fatto che fino al 65% in meno. Bah, Vediamo se questo è fondato, il testo non ce lo abbiamo, come è evidente. Però sia le 2 miliardi di Voluntary, sia le 4 miliardi da Equitalia, sempre che si incassino, sono poste one-off, non si possono mettere a copertura di spesa corrente, quindi pluriennale, eppure questo è quello che il governo ci ha detto. Il terzo neo di fondo è che, salvando la parte molto positiva, ma ne riparleremo, per le imprese, Industria 4.0, per il resto sull'anticipo delle pensioni, ancora una volta per me si tratta di uno schiaffo ai giovani, perché anche l'APE volontaria, cioè quella non ai disoccupati o agli cosiddetti esodati o ai lavoratori usurati, anche quella, se ha un aggravio annuale minimo, massimo, perdonate, annuale fino al 4,5% dell'assegno annuale, non coprirà tutte le spese dell'anticipo, non coprirà l'anticipo bancario e il costo della riassicurazione per le banche rispetto all'anticipo che fanno, quindi anche in quel caso c'è un contributo di finanza pubblica. Poiché a mio giudizio il vero problema sono i giovani, e poiché sono rimasto colpito dal fatto che anche il Fondo Sanitario per la Povertà, su cui non si è fatto nulla in questi anni, ancora una volta vede una dotazione annunciata di mezzo miliardo, sì, ma per il 2018 e non per il 2017, questa priorità per me è radicalmente sbagliata. Queste sono alcune delle mie osservazioni, ma iniziamo subito con la parte che riguarda il fisco. Ecco, vi riepilogo brevissimamente le tante misure che sono annunciate. Non si tratta praticamente quasi mai di misure universali, ma misure, per così dire, scelte dal governo a chi e come, e questo è un altro difetto, perché sul fisco bisognerebbe intervenire non con i bonus ma con le misure universali. Pur tuttavia, al di là di Equitalia, a cui andiamo subito, è importante la riduzione dell'IRES per 3,9 miliardi, facendo scendere l'aliquota, quindi legale per le imprese, dal 27,5 al 24%, vecchio impegno mantenuto da parte del governo. È importante che per le piccole microimprese, artigiani e commerciali ci sia la possibilità del cosiddetto IRI, e quindi non più andare in IRPEF con aliquote progressive il reddito della loro microimpresa, ma con l'IRI con un'aliquota del 24%. È importante per le partite IVA, i freelance, cioè quelle non iscritte a gestioni proprie, il sventare l'aumento al 33% dell'aliquota e invece adottare un'aliquota agevolata del 26%. E quindi queste sono alcune delle cose significativamente molto importanti per quello che riguarda gli interventi, in particolare sul reddito d'impresa. Ma andiamo alla questione Equitalia. E con noi il professor Dario Stevanato, che insegna diritto tributario all'Università di Trieste. Lo ringrazio di essere con noi, buon pomeriggio. Sì, buongiorno, grazie a voi. Allora, io devo chiederle innanzitutto, poiché i giornali si dividono, alcuni sparano addosso dicendo intanto la misura è un condono, la rottamazione dei ruoli, e non è quindi un segno di lotta all'evasione fiscale, ma è il contrario. B, quello che mi interessa capire è il suo giudizio intorno alla questione fondamentale, poiché per stimare 4 miliardi di entrata bisogna immaginare una fortissima diminuzione dell'onere per il contribuente. Ricordo che voi pagate sulle cartelle tributarie, pagate ovviamente il contestato, accertato che non avete pagato, primo; secondo, gli interessi legali; terzo, gli interessi di mora; quarto, l'aggio del 6%. C'è stata una recente sentenza della Commissione Provinciale Tributaria di Treviso che dice che l'aggio in realtà non va pagato dal contribuente, ma dovrebbe riguardare il rapporto tra Equitalia e l'ente impositore per cui opera, ma vedremo. In realtà nessuno ha il testo, i giornali danno per scontato che dovrebbero sparire gli interessi di mora, gli interessi legali, l'aggio scendere o dal 6 al 3% o addirittura sparire pure lui. Professor Stevanato, che dice? Come lei diceva, anche questo non è un provvedimento strutturale, se ho capito, cioè qui non mi pare che si intervenga a regime sulla misura degli interessi, sulla misura dell'aggio e sulle sanzioni, cioè non è un provvedimento che riguarda d'ora in poi tutti i contribuenti, ma se ho ben capito riguarda appunto una situazione transitoria di cartelle emesse e ad oggi non pagate, e per cui verrebbe instaurato una corsia preferenziale. Secondo me non c'è dubbio che su molte questioni il peso, il gravame su oneri fiscali non pagati è eccessivo, valga per tutto il tema dell'aggio, che in percentuale l'8% sulle somme non pagate può raggiungere cifre veramente senza più alcuna connessione con i costi della riscossione. Però ecco, fare una cosa del genere soltanto per alcuni, cioè per chi si trova ad avere cartelle non pagate, mi pare che sia una fondamentale violazione del principio di uguaglianza. Oh. Rispetto a chi o ha pagato regolarmente nei termini, oppure si è trovato a non pagare, a ricevere cartelle, e conosco un sacco di casi di contribuenti che hanno ricevuto cartelle e a fatica e con grandi sacrifici si sono messi a fare piani di rateazione, hanno pagato fino all'ultimo centesimo di sanzioni e interessi che gli venivano chieste. Ecco, rispetto a questi soggetti, come si pone un provvedimento del genere? Mi pare effettivamente un condono, non c'è dubbio sotto questo profilo. Su questo, secondo lei, l'Europa può eccepire qualcosa? L'Europa non ha competenze se non andiamo a toccare l'IVA, per cui nel momento però in cui l'imposta viene richiesta, probabilmente il tema delle sanzioni e degli interessi all'Europa potrebbe non interessare, quindi non è detto che ci sia un problema di compatibilità con l'Unione. Invece mi pare che ci sia un grosso problema di uguaglianza rispetto a situazioni o simili o addirittura in cui il contribuente aveva operato fin dall'inizio. Insomma, non... Invece io sarei intervenuto con un provvedimento a regime per rivedere l'AGI e per rivedere gli interessi monatori. Esattamente. Senta, l'Agenzia delle Entrate, per chi segue tecnicamente la faccenda, ha dei contratti diversi, cioè dei contratti di tipo bancario rispetto all'Agenzia delle Entrate. Adesso si pensa di annunciarne, anzi se ne annuncia l'abolizione, in realtà integrandola nell'Agenzia delle Entrate. Questa roba come può avere costo zero, visto che il governo mette questa cifra, i 4 miliardi di maggior incasso atteso dalla rottamazione dei ruoli, e però non dice una parola su come si fa a far funzionare Equitalia, visto che i lavoratori dovrebbero cambiare il contratto? In realtà a quel punto resta una spa separata ed è tutto come prima, o sbaglio io? No, infatti questo è tutto da vedere. Il punto è che è vero che è un'anomalia italiana l'esistenza di un ente della riscossione separato dall'amministrazione finanziaria, quindi sotto questo profilo l'accorpamento potrebbe avere un senso e ricondurci a normalità, però è tutto da verificare, cioè c'è un tema di diversità contrattuale, c'è un tema di mancato superamento di concorsi pubblici da parte dei dirigenti, dei funzionari, insomma, di chi opera per Equitalia. E un accorpamento di questo genere avviene in un momento in cui l'agenzia è per conto suo in grave difficoltà, perché il tema dei concorsi per i dirigenti è lungi dall'essere risolto. Quindi andare a mettere altra carne sul fuoco in questo momento non so se sia una buona idea. Immagino che i provvedimenti che stanno per uscire individuino un percorso e quindi poi ci vorrà tempo per capire se e come questa integrazione avverrà, e cioè se avverrà nel segno di una maggiore, come dire, privatizzazione dello statuto dell'Agenzia delle Entrate, oppure secondo modalità diverse che francamente credo nessuno conosca. Senta, per l'IRI ad artigiani e commercianti che impressione ha? Ecco, per l'IRI è un provvedimento positivo, nel senso che parifica e rende neutrale la scelta della forma di esercizio dell'impresa rispetto al carico fiscale applicabile. Attenzione però che l'IRI non riduce l'IRPEF dovuta da questi soggetti al 24%, ma crea un doppio binario di tassazione del tutto analogo a quello che vige per le società di capitali, e cioè i redditi prodotti da imprese individuali e società di persone verranno tassati con un'aliquota proporzionale del 24%, ma poi se questi redditi, anziché essere reinvestiti, verranno prelevati, cioè distribuiti e usati per i consumi dell'imprenditore, l'ISCI si sconterà l'IRPEF, quindi ci sarà un doppio stadio di tassazione, ma il livello complessivo dovrebbe restare inalterato. Quindi la positività è, per così dire, fare un passo verso l'unificazione del regime rispetto alle società di capitali, punto. L'annuncio è pagherete solo il 24, non è così ovviamente, ecco, no? So per dire che il diavolo sta nei dettagli, la differenza tra la propaganda politica e poi quello che ci sarà nei provvedimenti e i loro effetti bisogna sempre tenerlo molto fermo. Continuo a dire che è molto difficile distinguere per un giornalista, visto che il testo noi non ce lo abbiamo. Va bene, intanto grazie al professor Stevanato, torniamo tra un minuto, intanto traffico. Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presenta La la versione di Oscar. Ed eccoci qui tornati, cari ascoltatori, occuparci di quel po' che possiamo desumere non avendo testi, del molto che intanto il governo ha detto della legge di bilancio 2017 e poi triennale e del decreto legge che è annunciato e connesso. Abbiamo iniziato a dire qualche cosa sui temi fiscali, ci sono alcune cose buone, molto discutibili comunque, tutti interventi one off. Abbiamo tentato di spiegarvi la cosa di Equitalia, che a nostro giudizio è un po' diversa da come la annunciano i più dei giornali. Non sappiamo bene davvero come scenderanno gli interessi legali di Mora e Laggio, ed è questo che determina l'incentivo, ma di sicuro c'è un problema rispetto a chi ha pagato col vecchio criterio, visto che anche questo durerà, se va bene, un anno e quindi non è un intervento strutturale. Per carità di Dio. Allora, tentiamo di dare qualche giudizio più complessivo. Ho scelto per questo un giornalista che a mio giudizio ieri su Repubblica, insieme al professor Daveri sul Corriere della Sera, ha inquadrato in maniera più sintetica ma chiara alcune delle considerazioni, secondo me fondate oggettivamente, più critiche, riconoscendo il giusto all'intervento del governo, che poi aumenta i 2 miliardi il fondo sanità, interviene con tutto questo pacchetto di anticipo delle pensioni, su cui sono molto critico, salva il bonus per i lavoratori solo per la conversione dei giovani ex stagisti in contratti a tempo indeterminato e poi per le assunzioni di 25 anni nel sud, però in buona sostanza tante sono le incognite. Ricordo a tutti poi che questa manovra alla spada di Damocle del 4 dicembre, che sarà a metà del referendum del suo iter parlamentare, nessuno è in grado di dire cosa succede in caso di vittoria del no. Però è con noi appunto l'editorialista di Repubblica, giornalista di Repubblica, Ferdinando Giuliano. Buon pomeriggio e grazie di darci un po' del suo tempo. Buongiorno a voi. Che cos'è che possiamo, in termini generali e guardando anche a come vanno gli altri paesi europei, sottolineare ai nostri ascoltatori di quanto il governo ci ha detto? Sono due punti secondo me fondamentali, oltre a quello di, appunto, del condono e del ruolo di Equitalia che avete già discusso ampiamente. Il primo è la carenza di dettagli. Io sono, diciamo, la prima legge di bilancio che seguo, perché sono stato in Inghilterra per tanti anni. Altrove è possibile e altrove la presentano così. Da questo punto di vista però trovo veramente surreale che si parli da tre giorni di una legge di bilancio di cui nessuno conosce prima di tutto il dettaglio dei provvedimenti che mancano, ma anche semplicemente una semplice tabella in cui sappiamo dove sono le entrate e dove sono le uscite. Stiamo ancora ragionando su 33 slide presentate dal Presidente del Consiglio con molta verve e molta eloquenza, in una presentazione molto simpatica, che però erano chiaramente più dal lato della propaganda che dal lato dell'informazione, comprensibilmente, perché ovviamente anche a lui sta a vendere i suoi provvedimenti, però per noi che facciamo informazione sarebbe utile avere dei dettagli più precisi. E il secondo punto è quello lì, secondo me, molto importante, è quello delle coperture. È chiaro che da questo punto, questa legge di bilancio è un tentativo di soddisfare molte categorie sociali. Però è chiaro che con una, appunto, non solo con i parametri, diciamo, i vincoli europei di cui si parla tanto, ma anche semplicemente per la forza della nostra finanza pubblica, e ricordiamo, è schiacciata da un debito pubblico molto alto, ecco, è importante anche ragionare da dove vengono i soldi. E su questo sembra che prima di tutto questi soldi verranno da deficit aggiuntivo, quindi ulteriore indebitamento, e poi da coperture che sono piuttosto difficili da, su cui è difficile essere sicuri. Si pensi appunto a questi 4 miliardi che dovrebbero venire dall'abolizione di Equitalia, che ricordiamo è comunque un'agenzia che cerca di far pagare in maniera probabilmente troppo zelante, spesso ingiusta, così, però cerca di far pagare le tasse. Quindi pensare a recuperare 4 miliardi, può darsi che lo si farà l'anno prossimo perché ci sarà una specie di condono, ma cosa succede nel lungo periodo? Che segnale stiamo dando alle persone che pagano regolarmente le tasse? Ecco, quindi il tema delle coperture e del deficit è un tema estremamente importante che deve essere chiarito quando arrivano i dettagli, ma speriamo arrivino presto. A sua opinione, la scelta del pacchetto previdenziale, l'APE, con 7 miliardi in 3 anni, quindi più di quanto ci si aspettasse, almeno 1 miliardo in più di quanto ci si aspettasse, ma con un tetto massimo di penalizzazione annuale per chi fa l'APE volontaria, quindi con 36 anni di contributi, che però non copre il costo dell'anticipo, perché se, come confermato e ha detto il governo, la penalizzazione massima annua è del 4,5%, 1,5% dell'assegno, i costi dell'anticipo bancario e dell'assicurazione che le banche dovranno poi stipulare per evitare, in caso, ohimè, di inopinata morte del soggetto e quindi di cessazione poi della cosa con un anticipo che non rientra, ma per così dire implica che anche per l'APE volontaria la fiscalità generale mette soldi. Allora, questa è la priorità da che punto di vista rispetto ai giovani e alla povertà assoluta che non hanno visto mai interventi? Allora, partiamo da un presupposto, un intervento per dare maggior flessibilità a quelle persone che vogliono andare in pensione, secondo me è tutto sommato giusto, nel senso che sono fatti, secondo me, di un lavoratore decidere quando andare in pensione, purché appunto si sostenga sulle sue forze. Se qualcuno ha messo da parte molti soldi e vuole andare prima in pensione, secondo me è giusto che lo faccia. Ma il nostro non è un regime a capitalizzazione, sarebbe giusto se fosse, è il nostro è la ripartizione, cioè le pensioni in essere ogni mese le pagano i contributi dei poveri giovani che non lavorano o comunque non avranno mai una questo pensione. Questo è esattamente il punto. Dunque, l'APE in teoria era una misura, secondo me, giusta, perché in qualche maniera andava a risolvere quello che è un fallimento di questo mercato. Il problema qual è? Il problema è che lo Stato ci sta mettendo un bel po' di soldi, 7 miliardi, compreso anche poi l'intervento sulle pensioni basse, questa 14ª di cui possiamo anche parlare. Ora, la mia domanda è: 7 miliardi in 3 anni non sono pochi in una situazione appunto di ristrettezze fiscali e soprattutto in un momento in cui si vanno a togliere degli incentivi che probabilmente sono stati pensati, potevano essere pensati meglio, ma che comunque andavano ad aiutare l'occupazione o avrebbero voluto aiutare l'occupazione giovanile. Quindi questo crea un discorso di redistribuzione delle risorse tra generazioni ed è chiaro che si va ad aiutare la categoria appunto dei pensionandi e poi con l'aumento delle pensioni basse dei pensionati. Ora, se uno va a vedere i dati, per esempio l'indagine di Banca Italia sul reddito e sul patrimonio delle famiglie italiane, si vede che durante dalla crisi i più colpiti sono stati appunto le persone al di sotto dei 40 anni e 35 anni, mentre gli ultra 65 anni sono la categoria che ha tenuto botta meglio. Se vediamo oggi i dati sulla povertà, si vede anche quello, che i dati più eclatanti, più drammatici sono sulla povertà per i più giovani. Quindi, se anche si voleva fare un discorso di equità, come dice di aver voluto fare il presidente Renzi, la priorità era andare a fare un sostegno a favore della povertà o comunque delle difficoltà dei più giovani. Ricordiamoci il dato della disoccupazione giovanile italiana, è un dato assolutamente fuori linea rispetto a quello degli altri paesi europei. E ricordiamo anche un altro dato, quello di come viene speso il welfare in Italia. Il welfare, per ogni euro che va alle persone in età lavorativa, ci sono 4 euro che vanno ai pensionati. Quindi andare a squilibrare ancora di più questo sistema mi sembra non avere le priorità ben chiare in testa. Ecco, io sono integralmente d'accordo con lei, a patto di avere, e la politica questo fa, come priorità quella di guardare che l'età media è quella di 45 anni, ma la partecipazione al voto nelle corti di età è molto più elevata in chi è sopra i 55 anni rispetto a chi è giovane. Cari giovani, riflettete, finché se non avrete voice, e non ce l'avete nei sindacati, non l'avete in politica, la politica sceglie altre priorità, non quelle purtroppo di chi ha perso più reddito e patrimonio. Grazie anche a Ferdinando Giuliano, e intanto appuntamento domani mattina come Alessandro Mina alle 8:20, come sempre in Attenti alle 2.